Radio 24 Reportage. Grumello del Monte, dove la scuola è digitale, di Francesco Maesano. L'iPad, il tablet della Apple che permette di navigare la rete, scrivere un testo o guardare un film dallo schermo di una tavoletta spessa meno di un centimetro, ha sostituito dispense e libri di testo nelle aule del centro di formazione professionale Icaros a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo. Siamo andati nell'istituto, il primo in Italia ad adottare iPad in tutte le classi, e abbiamo incontrato studenti e insegnanti per capire cosa sta cambiando con l'adozione del tablet PC della Apple. Io ho sostituito completamente i libri di testo con l'iPad, quindi lo utilizziamo solo per la parte teorica. Io mi trovo bene perché ho fatto delle dispense sulla base di un sito di matematica che è molto molto chiaro, nonostante sia per le superiori, quindi c'è tutto dall'aritmetica all'analisi. E infatti, facendo scaricare questo sito sull'iPad ai nostri alunni, loro in questa scuola sarebbero praticamente a posto dal primo anno fino alla fine, fino a quando stanno con noi. Tutto sommato è una risorsa, proprio perché leggere la letteratura in una prospettiva non solo diacronica, quindi di un prima e di un dopo, ma in una prospettiva tematica, apre la multimedialità, in questo senso ci offre di spaziare, per cui sto facendo qualcosa inerente a un autore, posso accedere sia attraverso YouTube o altri canali, ad esempio ad altri approcci che non sia l'approccio del puro testo, e in secondo luogo riesco anche ad avere una visione d'insieme e soprattutto immediata, per cui non andate il pomeriggio a vedere, a fare una ricerca, ma andiamo ora ragazzi tutti insieme a vedere questa cosa che può essere di interesse, quindi la possibilità di deviare l'attenzione dell'argomento, insomma, e quindi il loro interesse su qualcosa di particolare che non sia strettamente legato a quella che è la risorsa testo. Per quanto riguarda invece un'esercitazione di ascolto e comprensione in lingua inglese, di solito io uso l'Instat Podcast, che praticamente, che cos'è? Una possibilità di ascoltare madrelingua, chiaramente, può essere un racconto, qualsiasi tipo di testo, e allo stesso tempo i ragazzi, oltre ad ascoltarlo e a comprenderlo, hanno la possibilità di visionare il testo che viene letto, così che io posso sfruttare sia l'audio, diciamo, che visivamente i sottotitoli dello stesso brano. Ma se l'esperienza dell'iPad tra i banchi della scuola lombarda che stiamo visitando rappresenta un caso isolato accompagnato da pochi altri esempi in Italia, lo stesso non si può dire per le scuole europee. In Francia il Ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione degli studenti 10.000 tablet con connessione 3G inclusa per 2 anni, al costo di 1 euro al giorno. 730 euro di spesa per avere un tablet Apple o Samsung. Una iniziativa che ha subito scatenato una sorta di concorrenza, dato che un'azienda francese, l'Arco, ha deciso di offrire lo stesso servizio al costo di 50 centesimi al giorno, dando agli studenti un tablet Android, anche qui con connettività 3G. Ma non solo, all'inizio di quest'anno, durante le polemiche per i tagli all'educazione decisi dal governo inglese di David Cameron, il professor Andrew McDonald Boyer lamentava di dover accantonare il suo progetto di fornire agli studenti della sua Davison School dei tablet come supporto al materiale didattico, come invece avviene con successo alla Cedar School di Greencock in Scozia, un istituto privato dove l'iPad è fornito ai bambini delle scuole elementari e le lezioni si svolgono interamente con l'ausilio dei tablet. Ma torniamo in Italia. Il direttore dell'istituto di Grumello, Luca Nobili, ci ha accompagnato nel laboratorio di cucina, dove i primi passi che i ragazzi muovono tra i fornelli vengono registrati sui tablet e le informazioni vengono utilizzate per ottimizzare i piani di studio. Ora di laboratorio, la docente registra la lezione, quindi spiegazione, in questo caso facciamo l'esempio, stanno facendo l'impasto, no, per i dolci, lo fa vedere in modo che poi, caricando su tutti gli iPad a casa loro, abbiano la possibilità di fatto di rivivere la lezione rivedendo le immagini, in questo caso dividendosi loro a isole, uno sta facendo l'impasto, quell'altro incomincia già, staranno facendo il ragù, infatti c'è la verdura in un tavolo, mentre lì fanno la carne. Ognuno poi ha i suoi compiti, registrando questo uno può andare anche a rivedere quello che l'altro ha fatto e che magari lui durante la lezione non ha potuto invece sperimentare. I primini di cuochi sono più bravi rispetto a loro di secondo, lo dico a bassa voce, non si offendo. E dopo un mese è visto subito, quindi cosa ci ha permesso l'iPad? Di avere un programma anche elastico. Perché se tu l'anno scorso in prima hai fatto un tot numero di ricette, un tot numero di percorsi, quest'anno devi comunque, percepisci già dopo un mese che devi rifarlo, devi farlo più elevato, più robe, puoi spingere un po' più sull'acceleratore. In qualche modo permette di tagliarlo e di cucirlo sì, intorno alla classe. Se loro ci hanno voluto tre lezioni per imparare tutti il ragù, e loro in uno l'hanno capito, è inutile che vado avanti a fare il ragù. Posso andare avanti a fare la besciamella, altre cose. Allora, per fare il ragù, allora, noi qui aspetta, abbiamo, lasciami un attimo passare per cucire, abbiamo 4 litri di latte, qui devi fare un ragù a base di burro e farina. Ci stanno questi 4 litri di latte qua? No, direi che devi prendere. Dunque, la pentola è troppo piccola, vai a prendere una pentola più grande. Questa è l'ora di, che ora è, di laboratorio tecnico? Adesso stiamo facendo le fasi del massaggio, riassumo quello che c'è sul libro, l'ho detto a loro, le spiego tutte le fasi del massaggio e solo loro sull'iPad scrivono, scarichiamo qualcosa su internet, all'inizio era più difficile, adesso comunque sto prendendo un attimino la mano e... Ah no, loro sono contenti di usarlo, sono felicissime di usarle loro. No, a me piace l'iPad. Sì, perché? Perché possiamo magari anche vedere le diverse manualità, tipo per adesso del massaggio, tramite i video che la prof ci passa. Cioè, la prof non sta lì a fare 20 volte un massaggio, ma ce lo fa vedere una volta e poi noi lo vediamo tramite l'iPad. I tablet manderanno definitivamente in pensione i libri di testo nelle scuole, sostituendoli con siti e applicazioni? Non tutti sembrano esserne poi tanto convinti. Maneggiare l'iPad può rappresentare anche una formidabile fonte di distrazione per i ragazzi ed il controllo sui contenuti da parte dei docenti è una delle sfide che si porta con sé. Mi piace l'iPad, però cioè, per me era più semplice sui libri. Il fatto che magari con l'iPad però puoi avere più cose, internet, le varie applicazioni, puoi giocare. Però per la scuola secondo me era meglio i libri. Se non sto tanto attenta alla lezione posso fare una foto alla lavagna, tipo è vero, e poi ce l'ho già salvato, metti caso che sono rimasta indietro. Sì, poi si può fare anche il video. Il video della lezione, così dopo a casa si può ascoltare. Abbiamo messo la wireless in tutta la scuola, quindi accederanno soltanto alla nostra linea. Quindi la nostra linea avrà dei filtri che quindi potranno andare anche a navigare semplicemente solo dove lo diciamo noi. Okay. Questo è inevitabile. Poi è chiaro che come prima giocavano eventualmente qualcuno col cellulare, adesso è chiaro che magari potrebbero giocare con l'iPad. Non è che prima il problema non ci fosse. Oh, siamo nelle fasi iniziali, per cui al momento sembra che ci siano più problemi che vantaggi. Sì? Sì. Perché? Perché i ragazzi fanno fatica a scaricare le cose che vengono trasmesse, perché un po' se ne approfittano di questa situazione. E sicuramente, cioè, non è, al momento perlomeno non si vede tutta questa, diciamo, tutta questa grande innovazione che sembrava essere prospettata. No, lo usiamo solo a casa per i giochi, perché se no i professori prima cosa ce lo ritirano, seconda cosa ci mettono le note. Ogni tanto vabbè magari si impallo, vedete, però bene dai. Professori che non ci saremmo mai aspettati sapessero usare l'iPad piuttosto che il consiglio, piuttosto che la cosa, stanno facendo i corsi di aggiornamento e di apprendimento alla Apple, alla Oreo, però vengono in classe con tanto di conoscenza. È successo comunque che soprattutto con i ragazzi che stessero giocando a qualche applicazione che avevano scaricato e non si sa perché l'applicazione loro riescono sempre a scaricarle, quelle per noi no. Però adesso, dopo le prime volte che hanno visto che sto facendo così, adesso è tutto a posto. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.